America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. If Washington operates as usual and can't get anything done, let's at least avert Armageddon. Armageddon, Armageddon è la fine del mondo. La fine del mondo, lo ha detto Barack Obama, ci sarà se non si troverà un accordo sul bilancio. Nel corso del fine settimana il presidente, con la leadership del Congresso, la leadership repubblicana, quella democratica, hanno lavorato con l'intento di superare un impasse che potrebbe portare al default degli Stati Uniti d'America. All the congressional leaders have reiterated the desire to make sure that the United States does not default on our obligations and that the full faith and credit of the United States is preserved. That is a good thing. Allora, secondo me è molto importante cercare di chiarire innanzitutto che cosa significa default per gli Stati Uniti d'America, perché non stiamo parlando di rischio Grecia, ma di un rischio tecnico. Il 2 agosto ci sarà la scadenza dell'aumento del tetto sul debito americano. E dunque, non è che gli Stati Uniti vanno sul mercato e non trovano credito, non trovano gente che gli dà soldi, oppure gliela danno ma gli fanno pagare dei tassi di interesse esorbitanti. No, il problema è che esiste un tecnicismo che impedisce agli Stati Uniti di indebitarsi a meno che non ci sia un'autorizzazione da parte del Congresso. E che cosa succede? Succede che il Congresso, la Camera soprattutto controllata dai repubblicani, sta utilizzando questo tecnicismo dal punto di vista politico, e dunque personaggi come Eric Cantor, che è il capo della maggioranza alla Camera, o John Boehner, il presidente della Camera, direi il leader in questo momento dei repubblicani, usano questo cavillo tecnico per dire: io non ti do l'aumento sul tetto del debito se tu non mi tagli le spese dal disavanzo pubblico, e per ogni dollaro di spesa tagliata io concederò un dollaro di aumento al tetto sul debito. Questa è, diciamo, l'impalcatura su cui è partito questo negoziato complicatissimo, con dietrologie, retroscena, litigi che hanno in qualche modo, quasi direi, un sapore nostrano. We called for $6.2 trillion in cuts over 10 years. In the current discussions at the White House, the president and the Democrats are offering perhaps $1.5 trillion. The number keeps moving, but perhaps. That's a big difference. Eric Cantor è uno dei protagonisti di questo dramma shakespeariano che si sta consumando negli Stati Uniti d'America. Ebbene, tiene duro. Ha detto che nel giro di qualche giorno presenterà alla Camera un suo progetto di legge che prevede tagli per 2.400 miliardi di dollari e in parallelo un aumento del tetto sul debito, appunto, per 2.400 miliardi di dollari. Ci si metterà d'accordo? Secondo me sì, perché ormai l'atmosfera è quella di cercare di recitare fino in fondo la propria parte, andare allo scontro. Secondo me i repubblicani hanno bisogno di questo voto alla Camera, lo passeranno, ma poi non potranno andare al Senato perché il Senato invece è a maggioranza democratica, dunque non ha speranza di passare questo progetto di legge. Ma ci sono i protagonisti del Tea Party, e il Tea Party vogliono soltanto tagli alla spesa. In tutto questo pasticcio cosa sta succedendo? Secondo me sta succedendo che il presidente Obama, con straordinaria abilità e intuizione, è riuscito a mettersi un po' sopra le parti e, con la calma che lo contraddistingue, ha continuato a parlare agli americani portando un messaggio molto semplice. I repubblicani vogliono soltanto tagliare le spese in questa manovra, non vogliono aumentare le tasse ai più ricchi o togliere alcune delle rigidità fiscali di cui non godono le persone comuni. Ecco, sono delle iniziative che dal punto di vista della sostanza si riducono poi, soprattutto quelle sugli aerei privati o per le compagnie petrolifere, a poche decine di miliardi di dollari, e qui parliamo di necessità di tagli di migliaia di miliardi di dollari, però hanno creato l'atmosfera in cui il presidente è pronto a fare la sua parte, è molto equo, cerca di portare i suoi compagni di partito a seguirlo lungo la strada del taglio di alcune delle spese sociali care al Partito Democratico, ma chiede in cambio l'aumento delle tasse sulle fasce più ricche della popolazione. L'equilibrio è 2/3, 1/3. Io taglio le spese per 2/3, voi mi date aumenti delle tasse per circa un terzo. Su questo i repubblicani resistono, la battaglia secondo me andrà fino alle elezioni del novembre 2012 per le presidenziali. Barack Obama, se le cose continueranno ad andare in questo modo, vincerà su questo messaggio, perché l'80% degli americani è grosso modo dalla sua parte, dunque anche molti repubblicani pensano che sì, è molto più equo anche aumentare le tasse su alcune delle fasce più ricche della popolazione. Ai microfoni di America 24 abbiamo Sandro Brusco di Stony Brook University, poco lontano da New York, un economista. E dunque, Sandro, buongiorno. Ti chiedo che cosa dovrebbero fare gli americani intanto per poter superare questa impasse? Qual è il problema da risolvere, secondo te? Tanto per cominciare dovrebbero levare questa ridicola regola per cui bisogna autorizzare il massimo del debito. Stanno automettendosi degli ostacoli che non avrebbero ragione di essere. Esiste già un processo di aggiudicazione delle poste di bilancio che viene votato tutti gli anni. Una volta che queste sono state aggiudicate, i mercati devono essere tranquilli sul fatto che se comprano il debito americano, quel debito verrà comunque servito. Questa idea che è una vecchissima idea, che fino adesso non aveva mai creato problemi, questa idea di innovare, di mettere un tetto massimo al debito, è un'idea francamente senza senso. Credo che ci sia solo negli Stati Uniti, tra l'altro. Quello che fa l'esistenza di questa regola bizzarra è quella di dare nuove occasioni di contrattazione in una situazione politica in cui c'è un divided parliament, in cui c'è il congresso che ha una maggioranza e c'è il presidente che appartiene a un partito differente. Quindi sostanzialmente questo fa sì che al posto di avere una contrattazione sul bilancio ce ne siano infinite, nel senso che dopo essersi messi d'accordo, dopo aver cercato di trovare un punto di incontro su tagli alle spese, nuove tasse, eccetera, eccetera, si ricomincia tutto da capo, perché ovviamente viene servito su un piattone d'argento la possibilità di iniziare la contrattazione. Ecco Sandro, facciamo un'ipotesi catastrofica. Il 2 agosto arriva, l'accordo non è stato trovato, gli Stati Uniti non rinnovano l'aumento sul tetto per il debito e vanno in default. Cosa succede? Allora, realisticamente quello che succede è il catafascio, se effettivamente fanno una cosa del genere. Ma una cosa del genere non può succedere, nel senso che c'è un limite perfino alla follia dei politici. Anche se arriveranno a questo, il primo giorno che alla vedova di guerra non arriva l'assegno, il primo giorno che non vengono fornite le cartucce a soldati in Afghanistan, eccetera, eccetera, scoppia un tale casino che almeno la soluzione transitoria immediata la troveranno. Da questo punto di vista io non sono molto preoccupato, e nemmeno sembrano francamente molto preoccupati i mercati mondiali, nel senso che se veramente assegnassero una probabilità realistica di default al debito pubblico americano, non vedremo i tassi che vediamo adesso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Uscirà il 13 settembre il nuovo disco di Annie Clark, poliedrica musicista indie originaria dell'Oklahoma. Di Annie Clark vi faccio sentire Paris is Burning. I am sorry to report, dear Paris, it's burning our door. We have taken to the streets and open. Rejoice, revolting. We are dancing a black waltz, fair Paris. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24.